Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera più che di economia parliamo di finanza e lo facciamo con Gian Giacomo Nardozzi. Buonasera professore. Buonasera. Gian Giacomo Nardozzi, docente di economia monetaria al Politecnico di Milano, lungo editorialista del Sole 24 Ore, ha scritto altri libri sul futuro dell'Italia, sul miracolo e declino. In questo libro si intitola Il mondo alla rovescia, come la finanza dirige l'economia. Il mondo alla rovescia richiama una novella di Goldoni messa in musica da Galuppi a fine del Settecento, ma allora erano il mondo alla rovescia erano le donne che comandavano sugli uomini. Adesso siamo in un regime di parità, non è più così, la finanza che domina l'economia. È questa la filosofia del libro, Gian Giacomo Nardozzi? Sì, è questa. Quindi cerco di spiegarlo in maniera molto piana, insomma, spero di essere interessante anche per chi non ha nozioni di economia. E questo dominio della finanza è una cosa abbastanza recente, una cosa che troviamo soprattutto diciamo nell'ultimo decennio, che è stato poi il decennio della crisi sì, in cui si è caricata la molla che ha fatto esplodere poi la crisi finanziaria globale del 2007-2009. Ecco, lì è avvenuta quello che io chiamo una mutazione genetica della finanza, insomma ho giocato un po' con l'OGM, no? Certo. In questo senso, genetica perché ha reso questa mutazione dominante un gene che è sempre stato presente nella finanza fino dai tempi antichi, ma che era sempre, diciamo, se si vuole, minoritario, cioè quello della trattazione del rischio invece il gene che noi meglio conosciamo e che tradizionalmente assegniamo alla finanza è quello del finanziamento dell'economia, no? In questo senso, in effetti, dopo la crisi si richiede ad alta voce, a cominciare dai regolatori, un ritorno della finanza al servizio dell'economia. Ecco, ma a questo punto chi è responsabile di questa mutazione genetica, del fatto che ci sia troppa finanza, in fondo che troppo denaro? Le banche centrali che hanno preso troppo potere o la politica che ha lasciato troppo potere alle banche centrali o i banchieri che non hanno saputo spostare appunto i loro interventi e che sono fidati molto degli uni e degli altri? E come sempre ci sono vari responsabili insieme. Però quello che io, innanzitutto c'è anche un'altra componente che bisogna ricordare, e cioè il progresso tecnologico, cioè l'innovazione che ha consentito la creazione di un'enorme capacità di immagazzinamento e di trattazione dei dati che permette alla finanza di ampliare proprio quella sua attività di assicurazione sui rischi che vengono da eventualità future. In questo senso i rischi sui quali uno può assicurarsi e nello stesso tempo scommettere. Ecco, ma questo non fa altro che moltiplicare però la quantità di denaro, la quantità di finanza, la quantità di strumenti finanziari e quindi di ingegneria finanziaria. Non c'è un modo per controllare questa espansione di creazione poi di un denaro che è virtuale, ma che finché resta virtuale probabilmente non fa danni, ma quando poi vuole diventare denaro reale comincia a mettere in crisi poi l'economia, come abbiamo visto con i mutui subprime americani. Ecco, qui c'è questa componente diciamo tecnologica che però è solamente una condizione diciamo permissiva. L'utilizzo, la creazione innanzitutto e poi l'utilizzo e la diffusione di questi tutti questi strumenti, parlo dei derivati, dei vari tipi di super derivati, vari tipi di titoli complessi, strutturati, insomma quelli che abbiamo imparato a conoscere dopo la crisi, perché prima erano un po' poco noti e molto scuri anche alle autorità monetarie. Questa diffusione e creazione è stata, questa è la tesi di fondo del mio libro, agevolata, se non e anche sorretta, dalla politica monetaria. Da una politica monetaria che sostanzialmente non regola soltanto l'inflazione, ma regola anche la propensione al rischio della economia e della finanza, e quindi regola anche la domanda della merce che più tratta oggi la finanza con la sua mutazione genetica, cioè proprio il rischio. È chiaro che se c'è denaro che costa poco ed è ampiamente disponibile, ci sarà alta propensione al rischio, che si diffonde un pochino in tutta l'economia, dalla finanza per vari rivoli. Certo, il rischio ha un grande difetto, quello che ogni tanto si realizza, ogni tanto si verifica. Certo. E quindi come uscirne allora a questo punto? Quale può essere la via d'uscita per ridimensionare il ruolo della finanza, per riassorbire questa enorme mole di capitali che sono qualcosa come una spada di Damocle sul nostro futuro? La soluzione che propone il libro è affidarsi meno alla politica monetaria, alle banche centrali per gestire l'economia. In fondo la tesi del libro è che la troppa finanza è in un certo senso un'altra faccia della medaglia della troppa politica monetaria. Per i governi è molto comodo scaricare la responsabilità della gestione economica alle banche centrali. E questo lo vediamo bene proprio in questo momento, se ci pensiamo, in Europa dell'Eurozona. Però la politica monetaria non può sostituirsi alla politica. Ed è questo il messaggio che continua a ripetere Draghi. Ecco, ma in questo senso... Volevo aggiungere solo che non si tratta solo di quello che vediamo oggi nell'Eurozona con la seconda crisi greca, ma la vediamo anche in fondo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono in una situazione piuttosto critica, dopo anni e anni di politica monetaria super espansiva. La ripresa è abbastanza anemica e nello stesso tempo la banca centrale ha paura per la stabilità finanziaria e quindi continua a rinviare il rialzo dei tassi che potrebbe creare problemi. Ecco, ma in questa prospettiva un intervento della politica, cioè del ruolo dei governi, non rischia di sfociare anch'esso in una nuova ondata monetaria, perché i governi, se vogliono appunto fare politiche espansive, possono fare politiche keynesiane, però aumentando il proprio debito e quindi tornando ancora all'origine della creazione di elementi di instabilità. Gli investimenti pubblici possono essere finanziati solo attraverso il debito, quindi in qualche modo la finanza è ancora una componente di instabilità, anche con una maggiore presenza della politica economica vera e propria da parte dei governi. Professor Nardozzi. Ma guardi, qui non bisogna demonizzare il debito pubblico così come è stato demonizzato finora. I problemi che hanno creato la crisi sono venuti dal debito privato. D'altra parte, oggi noi siamo in una situazione completamente diversa da quella in cui si pensava di essere prima della crisi, e per due motivi. Uno, perché ci si è reso conto, e questo è scritto chiarissimo nei rapporti delle istituzioni internazionali, a partire dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, ma anche nel Fondo Monetario Internazionale, che l'abuso della politica monetaria promuove, diciamo, è basato su una visione di breve periodo, di contrasto alla instabilità economica di breve periodo, cioè di contrasto a un aumento dell'inflazione, un eventuale rallentamento del PIL, eccetera. Però concentrandosi nel breve periodo, la politica monetaria finisce per generare nel più lungo periodo dei cicli finanziari di indebitamento che poi dopo alla fine, quando scoppiano, provocano delle crisi molto gravi come quella che abbiamo sperimentato. Ecco, ma a questo punto non ci sarebbe magari necessaria una misura, diciamo così, rivoluzionaria, quella di lasciare che sia il mercato a fissare i tassi di interesse invece che le banche centrali? Questo non mi sembra possibile. Di ogni modo, l'altra considerazione che è emersa e sta diffondendosi molto è quello che ci troviamo probabilmente già ben prima della crisi in un'epoca di stagnazione secolare. Credo che gli ascoltatori ne abbiano sentito parlare, sì, abbia letto qualcosa sui giornali, di stagnazione secolare per le economie più avanzate. Al netto delle bolle ripetute finanziarie, immobiliari, eccetera, già dalla fine degli anni 90 c'è stato un forte rallentamento della crescita, della produttività, che è poi quella che determina lo sviluppo, insomma, dell'economia, nei paesi più avanzati, quindi nel nostro mondo, diciamo. Ecco, con elementi appunto di economia reale e direi anche di società reale, nel senso che hanno contribuito a questo rallentamento, a questa stagnazione, fattori come il calo demografico, fattori come la rivoluzione tecnologica, fattori come la diversa impostazione politica anche delle realtà all'interno dei paesi. Sarebbe un discorso molto lungo, però dobbiamo fermarci qui con Gian Giacomo Nardozzi. Con un'ultima battuta, possiamo comunque sperare che si stiano individuando i problemi e quindi di fare un passo nella direzione giusta nei prossimi mesi? Il mio libro si chiude con un capitoletto intitolato Una morale, una speranza, quindi la speranza lì c'è, a cominciare direi da una revisione dell'insegnamento della teoria economica, di cui non abbiamo parlato, ma che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo così incontrollato della finanza. Grazie mille, grazie professor Nardozzi di averci spiegato come mai il mondo è alla rovescia, come mai la finanza ha preso il predominio sull'economia reale, ma anche come mai sia possibile pensare di poterne uscire, avere una speranza, non certo di fare una rivoluzione, ma di trovare una strada per ritornare a quelli che sono i fondamentali, a mettere il carro dell'economia come elemento importante, la finanza che riesce a spingere l'economia e non a decidere le direzioni in cui l'economia stessa deve andare. Abbiamo parlato con Gian Giacomo Nardozzi del libro Il mondo alla rovescia, come la finanza dirige l'economia, edito dal Mulino, sono 184 pagine per 12 euro. Grazie a Filippo Regi in regia, Luca Cremonesa in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.